grazie Gabriella, la mia voce è un po' bassa perché ho avuto l'influenza, ci si ammala qualche volta, appunto. E poi sono anche abbastanza, insomma, come tutti noi che siamo qui, perché altrimenti saremo altrove, è abbastanza scocciata per questa situazione imprendibile, insomma, non si sa dove prendere questa Italia, ma insomma ne parleremo magari dopo se ne abbiamo voglia e bisogno. Io invece questa sera, come avevo già parlato e convenuto con Gabriella, che ringrazio molto per la presentazione, prima di tutto ancora per l'invito, è un tema del pubblico e privato è centrato su, su Hannah Arendt. Io sarò un pochettino critica questa sera di Hannah Arendt e quindi mi ci provo. È molto rischioso perché sono in terreno non neutro, però vedremo. Dunque, il primo punto è sulla, partiamo da questa idea della complessità di questa distinzione pubblico-privato ed anche della grande difficoltà. E, senza voler fare la storia, senz'altro quando i liberali ci provarono a fare questa distinzione a partire dall'Ottocento, quando fu istituita la distinzione, diciamo così, compresero immediatamente che si trattava in ogni caso di un problema che richiedeva la trasformazione anche della parola libertà in qualche caso, proprio per dare un senso diverso al pubblico e al privato e anche le due rispettive libertà. Per non andare per le lunghe, basterebbe ricordare Mill, che nella teoria sulla libertà dice, con una spavalderia che lui stesso poi riconosce un po' esagerata, è una distinzione tutto sommato non complicata, perché basta sapere qual è la parte delle nostre azioni che non condiziona e che non produce danno a quella degli altri, ma è molto complicato andare a distinguere quale parte della nostra azione non produce danno e soprattutto che cos'è un danno, se è solo psicologico o anche fisico, se è sociale, quindi è tutt'altro che semplice. Infatti nella distinzione e nello stabilire dove fissare i limiti della legge o del diritto o del divieto e dove lasciare all'individuo, all'individuo la capacità e la libertà di scelta, anche su questo c'è grande discrepanza e disaccordo fra gli stessi liberali, i più interventisti o meno, eccetera. Insomma, qual è il limite del pubblico e chi lo stabilisce soprattutto, perché chi fa i confini e chi traccia la linea di confine è anche chi ha il potere. Da dove viene questo potere? Viene dal pubblico o dal privato? E quindi se è per decisione di maggioranza che si fa la decisione, questo è privato e questo è pubblico, è la maggioranza che l'ha deciso, è una decisione politica e quindi è anche questo politico. Insomma, come vedete è complesso. Allora, direi che in tutta questa complessità proverei qui in maniera molto schematica, però potrebbe essere uno spunto anche per approfondire meglio il tema, proverei a elucidare tre modelli del rapporto pubblico e privato in relazione a qual è la priorità dell'uno e dell'altro, almeno ideologicamente, e in relazione a questo discute di Hannah Arendt. Primo modello di relazione pubblico-privato lo chiamiamo modello liberale perché pone la priorità nel privato. Cioè tutti i grandi filosofi liberali, a partire dall'iniziatore della non politica, della ricerca di una dimensione non politica per difendere l'individuo, che è appunto Locke, partono dalla sfera privata, partono dall'individuo con i suoi diritti naturali, dalla natura, dalla naturalità della dimensione dell'individuo, poi la dimensione della famiglia, insomma definiscono prima una sfera intorno al privato prima di dire quando interveniamo e quando nasce lo Stato. Ovviamente Locke difendeva lo Stato in una maniera molto chiara, ovviamente aveva una concezione per nulla non politica, però era molto consapevole del fatto che per proteggere l'individuo dal potere supremo dello Stato era necessario togliere questo privato dalla dimensione della politica, fare in modo che ci fosse quasi una barriera invisibile. In questo caso perché? Perché il bene supremo era appunto nella sfera privata, nell'individuo, quella era la dimensione vita, libertà, proprietà, erano, anzi proprietà la delinea tutta, perché è proprietà della nostra mente, del nostro, dei beni, del nostro, della nostra forza lavoro, di quello che produciamo. Questa dimensione va difesa e lo Stato è in funzione a questo. Il pubblico è in funzione a questa difesa. È un mezzo, non è un bene in sé, o comunque un bene che noi dobbiamo perseguire per sé. All'altro lo chiamo liberale per questo, perché è una visione di limitazione dello Stato con uno strumento che è fuori dalla politica. E infatti la dimensione più importante per un liberale è la sfera giuridica, sono i giudici, sono i tribunali, sono non i parlamenti in ogni caso. Quindi una sfera che regola e che limita i rapporti e soprattutto che vuol fermare il potere rispetto a qualcosa che ha più funzione, ha più valore del potere che l'individuo. Il secondo modello è quello che potremmo chiamare la priorità invece del pubblico. Non direi del politico, perché entriamo in un altro discorso, del pubblico mi interessa in questo caso, ovvero questo è funzionale anche a Hannah Arendt, nella tradizione aristotelica la dimensione della vita nella polis, nella società, nella dimensione pubblica di vita, dove si prendono decisioni che valgono per tutti e che, alle quali tutti debbano obbedire, dove si partecipa alla costruzione della legge, alla sua applicazione, al giudizio in tutte le sue dimensioni. Questa era considerata la sfera nella quale tanto la dimensione etica quanto quella intellettiva e perfino estetica ha una superiore riconoscimento. In questo senso il pubblico è ciò che consente al privato di esistere e di dare il meglio di sé, insomma. Come dice Aristotele, noi abbiamo bisogno della società, della polis, proprio perché senza di essa nessuno di noi avrebbe autonomia o autosufficienza di vita, né la famiglia, né il villaggio, tantomeno l'individuo. Quindi c'è una dimensione suprema del pubblico. Uno potrebbe dire, ma anche questo è strumentale perché serve per la difesa della vita. È vero, però è una difesa della vita, non di qualunque vita o di quale che sia tipo di vita, ma di una vita che nella dimensione a cui pensava, a tutta la tradizione di civismo repubblicano a cui si pensa, è una dimensione di valore superiore, perché è superiore una vita spesa nella costruzione di una polis e delle sue leggi che una vita spesa a vivere con gli inferiori o i dipendenti, moglie, figli, servitù, eccetera. Quindi la dimensione del pubblico dà dignità e la dimensione del privato dà necessità, bisogno da soddisfare, ma non dignità di intelletto e di ethos. L'ho chiamata repubblicana non perché ci siano solo i repubblicani in questa dimensione, ma perché c'è la parte della res pubblica che ha una dimensione dominante rispetto a tutto il mondo del privato, non perché è inferiore, ma perché non completa la vita, mentre il pubblico la può completare. La terza è questa proprio alla quale sono, per me è una sperimentazione perché mi interessa di più, la chiamo accomodamento. Ed è quella democratica, secondo me, perché uno, è difficile definire la dimensione privata e pubblica nel mondo democratico, poiché tutto diventa un oggetto di discorso pubblico. Si usava a dire, nell'Ottocento gli inglesi usavano a dire che il Parlamento ha la funzione di trasformare un uomo in una donna, ovvero di interagire, di intervenire sulla vita. Sulla dimensione stessa e sulla concezione stessa di cos'è vita, di cos'è morte, oggi lo sappiamo molto bene. Quindi però è un pubblico questo che non è di altri, cioè di uno Stato separato, è un pubblico nel quale noi siamo tutti parte, in una dimensione di autonomia e di presenza più o meno diretta, e comunque coloro che sono i depositari del bene privato sono anche i facitori del pubblico e della sua distinzione col privato. Ecco perché è un accomodamento, cioè noi stessi decidiamo e accomodiamo la nostra vita a quella degli altri, nel far questo partecipiamo anche nella nostra coercizione in qualche modo. Ecco, questi tre modelli sono come punti di riferimento che si possono prendere in considerazione facendo per far fuoco su Hannah Arendt. Dunque, faccio fuoco su Hannah Arendt per argomentare a favore del terzo modello. e in questo senso criticare Hannah Arendt. Con tutto il, insomma, il rispetto che ha anche qualche volta il senso di soggezione rispetto a questa grande figura, insomma, però lei stessa era così, cioè occorre fare quello che lei ha indicato e a se stessa ha indicato di fare. Dunque, partiamo da quel che Hannah Arendt scrive nel totalitarismo, alle origini del totalitarismo. Cioè, ho trovato una citazione soltanto in inglese, ma la traduciamo, insomma. Dice, ogni fine nella storia necessariamente contiene un nuovo inizio, a new beginning, e questo nuovo inizio è la promessa, l'unico messaggio che quel fine può produrre o quella fine può produrre. L'inizio, prima di diventare un evento storico, è la capacità suprema dell'uomo, lei usa proprio man, dell'uomo. Politicamente è identico con la sua stessa libertà. E questo inizio è garantito da ogni nuova nascita, ogni nuova origine, ogni nuovo inizio. È infatti di ogni uomo. È molto interessante questo perché la capacità di far qualcosa di nuovo non è niente altro, dice lei, niente altro che il miracolo che salva il mondo. Cioè, da una fine, da un momento di caduta come il totalitarismo che distrugge la vita, lì è da ricercare l'origine. Cioè, nella peggior momento della caduta c'è una possibilità di rinascita. Questo senso della vita che distrugge la morte, anche quando parte dalla condizione stessa di decadenza, di grande tragedia, questo miracolo che salva il mondo, questa natalità, dove la situa Hannah Arendt? Dov'è l'origine di questa natalità, l'individualità, noi individui singoli, tutti diversi, specifici, non riproducibili, unici, e quindi perciò noi stessi, new beginning, in ognuno di noi esiste. Quindi è l'individuo il centro, il primato dell'individualità. Però non come liberali, è un primato dell'individualità che da un lato si avvicina alla tradizione liberale, ricordiamo che Hannah Arendt scrive durante la guerra fredda, è contemporanea di Isaiah Berlin, discutono dei limiti del pubblico e del privato nello stesso periodo di tempo e hanno dei nemici ben visibili, comuni a entrambi, che sono i totalitarismi, e che sono però anche le forme burocratiche o burocratizzate di politiche di Stato, contro la socialdemocrazia nel caso di Berlin, contro le forme di burocratismo statalistico, perfino il governo rappresentativo Hannah Arendt critica, proprio perché calcolatore, proprio perché abbandona la politica alla mentalità del commercio, cioè il calcolo di convenienza, la misura dell'utilità. Quindi è un individuo che vuole essere non certo quello della produzione dei beni e dei bisogni, non nemmeno quello che semplicemente va a votare e che quindi la sua opinione è computabile insieme alle altre. È un'individualità non dissecata come quella liberale in qualche modo. È un self fatto di una ricchezza interiore profonda. Pensiamo ai suoi studi su Sant'Agostino, parte di lì la ricerca dell'interiorità. Questa ricchezza di vita interiore, ecco il bene da proteggere per Hannah Arendt, da proteggere al punto, la dice, da creare un mondo intorno a lei che faccia da quasi da barriera affinché la nostra sfera del privato sia non trapassabile. Il privato come luogo dove noi ci difendiamo dagli sguardi, dai giudizi altrui, e in questo privato, in questa vita che non è il privato semplicemente della famiglia, è un'intimità con se stessi, che si riproduce questa energia, questo new beginning. Noi abbiamo bisogno di questo, come il pane, lei dice ad un certo punto. Quindi difendere questa per far sì che ognuno di noi possa essere creativo di azione, di agire, di un agire pubblico che non è semplicemente simile all'azione coordinata dei rational choice dei teorici della scelta razionale o dei razionalisti o dei deterministi, ma è una ricchezza, questa azione, questa vita, che ha bisogno di regole, ha bisogno di istituzioni. Hannah Arendt non è l'anti-istituzione. Recentemente, in un volume molto interessante che si chiama The Companion of Hannah Arendt per la Cambridge Press, c'è un articolo lì molto interessante di Jeremy Waldron che dice che dobbiamo riscoprire quella parte del costituzionalismo di Hannah Arendt, delle regole, buone regole, di come una comunità dà vita a se stessa, il new beginning trasferito nel mondo collettivo, come momento originario di formazione della dimensione della polis pubblica, insomma. Quindi è in questa ottica che occorre comprendere le sue distinzioni tra pubblico e privato. Dico le perché è complessa, non ha soltanto due dimensioni, Hannah Arendt ha almeno tre dimensioni nella sua definizione o distinzione. Comunque andiamo con calma, gradualmente. Ora, il mio problema è il seguente. È il discorso di Hannah Arendt valido per la democrazia? Per la nostra democrazia, non quella degli antichi. Per una nostra democrazia mediata, questa capacità che lei attribuisce alla politica di rigenerare l'attore politico, di rigenerare l'intera comunità. Questa idea del pubblico come lo spazio nel quale noi ci confrontiamo come uguali, ma non identici, sempre diversi, e che nel pubblico abbiamo anche questo elemento estetico e individuale egotistico, essere bravi nella parola, conquistare l'altro, non avere timore di emergere, di eccellere. Questo pubblico quindi che distingue tra coloro che sono scelti e coloro che non sono scelti, tra coloro che vincono e coloro che non vincono. È un pubblico che ammira le eccellenze, qualche volta fatue, qualche volta fasulle, come ben sappiamo, ma ne è alla ricerca. Questo è il pubblico a cui lei pensa. Ma c'è un altro elemento da considerare, la sua idea di politica. La politica... Pitkin ha di lei detto recentemente, ha scritto non mica tanto, insomma recentemente qualche anno fa, che ha una visione, diciamo così, un po' imprendibile della politica. È difficile comprendere che cosa per Hannah Arendt sia la politica, perché è una concezione rarefatta, dice, no? Perché non può essere solo dentro le istituzioni, altrimenti si fossilizza, dice Sheldon Vohling, ripete queste visioni. Quando la politica è solo nelle istituzioni, cioè la politica del lunedì, diremmo così, lì l'attività politica è morta, va altrove, va alla ricerca a rigenerarsi altrove. Non perché le forme uccidano la vita, ma perché la prendono tutta e fanno della vita un'unica dimensione, la dimensione del formalismo. Reagire a questo significa recuperare, riscoprire il pubblico oltre, e la politica oltre questa dimensione formale. Quindi lei ha quella visione del pubblico detta prima, questa visione della politica e soprattutto una concezione della politica che non deve aver nulla a che fare col sociale. Ed è su questo che io insisto questa sera. Quindi vado a prendere un testo che Hannah Arendt ha scritto, che è stato oggetto di grandi polemiche, che ha pubblicato su Dissent nel 1955, che è un testo esemplare, è una riflessione su Little Rock. Little Rock, in poche parole, è un piccolo paese dell'Arkansas, Arkansas, che in qualche modo liberale rispetto alla dimensione del sud degli Stati Uniti, e succede un fatto in questo piccolo paese, che il governatore dello Stato manda l'esercito nazionale, come si chiama? La Guardia Nazionale per disegregare la scuola pubblica. Lo fa perché, questo era il 57, perché nel 54, e Hannah Arendt scrive in relazione a questa sentenza del 54, non all'evento del 57, Perché nel 1954 la Corte Suprema americana era intervenuta con una decisione epocale da cui comincia tutto il dibattito, le lotte sui diritti civili, nella quale riconosce, la Corte Suprema americana sancisce per legge, statuisce una legge, nella quale si dice che non ci devono più essere nei luoghi pubblici luoghi separati per neri e per bianchi. Dice anzi che le scuole segregate sono anticostituzionali. La segregazione di bambini neri o di colore nelle scuole è un detrimento per i bambini, perché l'impatto è maggiore quando è sancito dalla legge questa separazione, perché lo Stato sancisce l'inferiorità di una parte dei cittadini e li fa sentire non degni di stare vicini all'altra. Quindi con questa decisione la Corte Suprema nel 54 entra nella sfera della famiglia, entra nella sfera del sociale. E Hannah Arendt scrive contro, criticando questa decisione, in nome di una nozione della politica che per un democratico è problematica. Ecco perché pongo il problema a Hannah Arendt da questo punto di vista. Cosa dice Hannah Arendt? Interessantissimo, tra l'altro saggio che è molto, scrive nel 54, quindi nel periodo in cui discute e si riflette sul totalitarismo, non a caso. È molto interessante il contesto. Dunque, Hannah Arendt dice ci sono tre dimensioni, tre sfere che noi dobbiamo prendere in considerazione. Quella sociale, che non ha nulla a che fare con la politica, come non ha nulla a che fare col privato, è la sfera delle libere associazioni. Hannah Arendt viene dalla tradizione di Tocqueville e di Montesquieu, quindi questi corpi intermedi, questo associazionismo che io scelgo di avere un'associazione con te per le ragioni più diverse, disparate, purché non sia di danno agli altri, of course. Nel sociale, con le libere associazioni, noi operiamo una discriminazione, lei dice. Lei usa la parola discrimination, exclusion. Perché io quando decido di mettermi con te e di fare associazione insieme, io non voglio altri con me. Anzi, qualche volta la mia associazione può esistere appunto perché ci sono altri che non ci sono dentro, contro i quali qualche volta mi posso anche mobilitare. Poi agisco anche in un modo di rendere prioritaria la mia associazione rispetto alle altre, quindi violo una legge che è quella di trattare uguali tutti, non tratto per niente uguali tutti. Questo lei lo chiama the realm of discrimination and inequality, il mondo del sociale come mondo della discriminazione e dell'ineguaglianza. Vorrei che lei in questo momento andasse nel nord Italia, vero? In relazione agli immigrati e a questa vita sociale che fanno in maniera discriminata e oggetto di discriminazione. Hannah Arendt non è a favore della discriminazione, non fraintendiamoci, e allora deve introdurre questa sfera seconda per far capire cosa intende per discriminazione. Sfera pubblica, politica. Politica, lei dice, in questa sfera ci sono diritti a uguale libertà e c'è l'uguaglianza. E non c'è discriminazione. C'era là, ma non c'è qui. Però è una sfera che per Hannah Arendt è una sfera del legale, è una sfera del formale, cioè di quella che è la norma, che le costituzioni, le leggi che ci tengono insieme come uguali, anche proprio perché non lo sono. Ed ella dice che la sfera per eguaglianza qui, io devo intendere non solo un'uguaglianza che ha la sua origine nel corpo politico, quindi un'uguaglianza in relazione all'appartenenza al corpo politico, come cittadini direbbe Rousseau, e la sua validità, la validità di questa uguaglianza è chiaramente ristretta alla dimensione politica. Io di questa ristrettezza, le dice, ho bisogno per difendere la mia libertà nella terza sfera, quella del privato. Non tanto per difendere il sociale in sé, sociale importantissimo per lei, nonostante tutto, ma per arrivare a quel privato. Quindi devo avere una sfera politica basata sull'eguaglianza e sulla dimensione ristretta, però non prende tutto, non c'è il panpoliticismo qui, dimensione definita, definibile, visibile anche, quella delle leggi, e lei dice dove tutti possono essere leggibili. Non vuol dire che tutti dobbiamo essere eletti, che dobbiamo essere eleggibili, sì, perché dice quell'uguaglianza ci consente di scegliere l'eccellenza. Cioè la famosa aristocrazia degli uguali, no? Insieme combattiamo, insieme ci entriamo in conflitto proprio perché i migliori emergono, o comunque quelli che noi riteniamo essere. Ecco, questa lei dice è la vera quintessenza della cittadinanza. Tutti uguali per poter emergere. Vi ricordate, prima ho parlato di questa eccellenza, di questa individualità come eccellenza. Ecco, la politica deve consentire questo. Però c'è un'altra sfera, questa che interessa molto qui. Una sfera che è quella del privato, e lei dice, dove noi siamo liberi di vivere con chi vogliamo, per scelta, dove non c'è uguaglianza, ma non c'è nemmeno discriminazione. È diversa dal sociale, vedremo subito perché. Perché anche se non c'è uguaglianza, come nel sociale, però non c'è discriminazione, come c'è nel sociale, noi ci trattiamo da uguali. Io scelgo per libera scelta te, non voglio discriminarti se voglio vivere con te nella sfera intima, vero? Quando incomincia la discriminazione, la nostra sfera di vita etica già è in declino o è morta. Quindi io entro per scelta nella sfera del privato, per scelta scelgo questa famiglia, questo sposo, questa sposa, eccetera, eccetera. Ora, bella la citazione, pagina 53 di questo saggio su Dissent, le fa tutte e tre queste diciamo sfere, per ragioni troppo complicate da discutere qui, dice il potere della società del nostro tempo è molto più grande che prima. E infatti dice molti, pochi anzi, sono coloro che sono lasciati a seguire le loro regole di vita privata. Perché qui il sociale nel tempo moderno tende a prendere tutto. Per esempio i gusti, il gusto estetico, il modo anche di scegliersi il compagno o la compagna. Tutto viene condizionato dall'occhio invisibile dell'altro nel sociale. Quindi è un sociale che diventa grande. Però è quel sociale di cui parlavamo prima, non inclusivo, fatto di discriminazioni. Dice, dobbiamo fare in modo che questo sociale non prenda tutto, non occupi tutte le sfere. E per far questo dobbiamo tenere le sfere separatissime, dire il sociale non deve essere abolito, ma deve essere mantenuto e preservato nella sua dimensione, che è quella delle libere associazioni, della possibilità di discriminare, di non volere, di non star vicini anche, e poi difendere la dimensione del privato. Lei dice c'è una legge molto terribile negli Stati Uniti, questa sì che è terribile, la non libertà di sposare chi si vuole, perché c'erano i divieti dei matrimoni intrarazziali. Questa sì che è una terribile non libertà, perché viola la parte segreta più intima mia, che è quella di seguire le mie passioni anche, le mie pulsioni, e di non consentire a me di essere individuo in questo senso. Quindi è importante che la sfera del sociale venga sempre definita e non tenuta ampia, anche se da noi nel mondo moderno, lui dice, è molto ampia. Allora, dice, il totalitarismo è stata l'esplosione del sociale che ha preso tutto. Dobbiamo evitare questo. Le società moderne, anche post-totalitarie, anche quelle costituzionali, proprio per la presenza di una società di mercato, di una società molto forte, molto thick, molto densa, rischiano nuove forme totalizzanti. Questo occorre impedire. Un unico linguaggio, un unico modello di vita, che si intromette e si intrufoli in tutte le sfere, in quella privata e in quella politica. Questo bisogna. Ecco perché ritorniamo al Little Rock, ecco perché critica la decisione della Corte Suprema. La critica perché per la prima volta, in maniera esplicita secondo lei, lo Stato entra direttamente nel sociale, per lei l'educazione è il sociale, e nel privato le famiglie, perché secondo lei i figli sono, quando ma non ancora adulti, è vero, sotto la tutela della famiglia, quindi la famiglia ha il dovere e il diritto di decidere di educarli e come educarli e anche in quale scuola mandarli. E dice qualcosa di più di questo. Dice, la scuola sta in due relazioni, con la famiglia e col bambino. Rispetto alla famiglia, occorre difendere e proteggere il diritto dei genitori, di educare i loro figli e anche di mandare nelle scuole che loro vogliono. Rispetto ai bambini, è importante, gli dice, che questi non vivano, non sentono sulla loro pelle la contraddizione, questo che interessa a me, tra la loro famiglia e la scuola dove vanno. Perché in questa contraddizione si consuma un elemento che per Hannah Arendt è importantissimo, che è politico, l'autorità. Perché se c'è, questo vorrei discutere come è interessantissimo, se c'è dualismo e contraddizione tra una famiglia tutta nera o tutta bianca o meticcia e una scuola che vuole essere bianca e nera, mescolata, chi vince? Fra queste due immagini, il bambino non è in grado di un autonomo giudizio e si lascia trasportare. Chi dei due ha più potere? Sarà la società che ce l'avrà sulla propria famiglia. Quindi l'autorità che per lei, grande, non so, Hannah Arendt non ha soltanto un amore per la Grecia, ma per Roma, noi ce lo dimentichiamo. C'è un saggio che ho portato con me, un saggio sull'autorità in Between Past and Future, che è straordinario perché è di qui che comincia, è il saggio proprio sull'autorità che comincia tutta la politica, in fondo, e l'autorità è il Senato per lei, il Senato sono i paters, è l'autorità nella famiglia da dove comincia la educazione alla vita pubblica e anche alla vita con se stessi, a saper dire sì e no alle proprie pulsioni, a non diventare natura, a non diventare oggetto del proprio desiderio o dei propri bisogni. Ma la società è il luogo dei bisogni, è il luogo della soddisfazione dei bisogni utilitaristici, per cui, ecco perché la sua critica ai movimenti socialisti, perché trasformano la società nella dimensione preponderante, determinante, invece per lei è strumentale, deve rimanere strumentale. Ecco perché la separazione. Allora facciamoci questa domanda, facciamola a lei in questo caso. Lei dice, pagina 55 di questo saggio, forzare i parenti a mandare i propri figli in una scuola integrata contro la loro volontà significa privarli del diritto che chiaramente appartiene a loro in tutte le libere società. Il diritto privato sopra i loro figli e il diritto sociale di libera associazione, di cui parlavamo prima. Circa i bambini, questa legge, no? L'integrazione forzata significa un serio conflitto fra casa e scuola, fra la loro vita privata e la loro vita sociale. E mentre questi conflitti sono comuni nella vita adulta, noi li viviamo sempre, i bambini non devono averli, perché se li hanno non sanno scegliere e quindi scelgono il potere più forte, non per autorità ma per imposizione. Ecco che la società entra nella nostra vita e trasforma l'intera società. Entra nella vita dei bambini, da bambini, impone l'autorità del sociale, le regole del sociale. Questi bambini si educano con questo. Il self, l'individuo, quell'intimo individuo di cui ho parlato prima, che è all'origine della natalità, cresce dentro una dimensione nella quale l'autorità ce l'hanno le norme sociali fondate sul bisogno, l'utilità e la convenienza. La prudenza, mentre dovrebbe essere ben diverso. Ecco perché è contraria. Allora noi dovremmo chiedere a lei, appunto, data questa sua interessantissima, grande, provocatoria ma più che provocatoria, perché non ha mai cambiato idea su questo, anzi l'ha radicalizzata negli anni, chiedere qual è la funzione della politica. Se non è quella di stabilire, risolvere i conflitti, qual è? Certo, il bambino non deve avere conflitti, ma perché il bambino abbia conflitti significa che una società è piena di conflitti e che si riflettono su di lui. Quindi nella società ci sono questi conflitti. Qual è il compito della politica? Di non mostrarli nei casi nei quali appunto ancora non c'è autorità o capacità per decidere autonomamente e quindi tenere l'ordine, diciamo così, della gerarchia paterna o l'ordine dell'autorità paterna come punto di riferimento focale. Ma se è questo, ecco che Hannah Arendt giustamente può dire: ma io non sono mai stata democratica proprio per questa ragione, repubblicana forse, l'autorità dell'ordine familiare in questo caso. La seconda domanda da fare: chi decide? Chi decide su quale debba essere l'oggetto delle decisioni collettive? Chi in Hannah Arendt fa questa decisione? Chi decide che la scuola non deve essere segregata o deve essere segregata? Non certamente il legislatore e nemmeno in questo caso la Corte Suprema, perché la critica. Allora è la tradizione stessa che deve essere considerata come generatrice di soluzioni collettive. È la tradizione, perché quella è la tradizione americana. E in relazione a quella tradizione lei pensa, perché in quella tradizione i bambini operano e crescono. Ma non è invece il caso che, eccola, una visione un po' di parte democratica, ritenere che coloro che devono obbedire a delle norme sono anche, e devono decidere prima di tutto che a quale parte della loro vita debba essere inserita dentro o comunque debba essere normata, non sono anche coloro che debbono fare le decisioni, che ci sia questa idea di autonomia, insomma, nel principio di autonomia democratica. Hannah Arendt non è molto convinta di questo. Ha un momento nel saggio sulla rivoluzione, l'ultimo capitolo, in cui c'è questo momento di creatività collettiva, quasi, diremmo quasi democratico fondativa, no? I consigli, le città del New England dove le persone si autogovernano, questi grandi momenti di vita democratica, però locali, però non ancora normati, diciamo così. Ecco, sembra che ci sia in lei una grande terrore, lei è una grande lettrice Tocqueville, quindi si comprende questo, no? Un grande terrore che la democrazia prenda il sopravvento, la democrazia per lei è sociale. La democrazia è il sociale per Hannah Arendt, come lo era per Tocqueville. Non è tanto il sistema politico. Dopotutto il sistema politico democratico è la regola di maggioranza. Eleggere poi c'è. Ma è il sociale, quest'idea di essere sotto gli occhi delle norme stabilite dalla vita sociale per ragioni di utilità o per ragioni di convenienza o per ragioni di riconoscimento mutuo, riconoscimento in funzione utilitaria, ovviamente. E questo è il suo timore. Per questa ragione la sua concezione della distinzione pubblico e privato è in questo caso certamente non democratica. Non c'è accomodamento qui. Secondo lei non ci si dovrebbe affatto accomodare a questo attentato che perennemente la società civile moderna dal 600 in poi fa nei confronti della politica, anzi lo Stato per lei è negativo, la sua critica alla sovranità dello Stato in questo senso parla anche in questo senso. Ecco, allora io direi per concludere che se dovessimo riflettere sulla cominciare una riflessione critica nei confronti di Hannah Arendt, dovremmo cominciarla proprio di qui, del rapporto pubblico-privato in relazione alla dimensione del sociale, in relazione a che cosa è la politica per lei se non c'è sociale nella politica. La politica non è per lei difesa degli interessi, rappresentanza degli interessi, non ha nulla a che fare con questo, anzi quando questo succede è la fine della politica. Allora chiediamoci che cosa, ecco perché Pitkin parla di questa visione evanescente quasi, o come dice lei, che l'ho pronunciato, io non mi ricordo più, rarefatta della politica. Rarefatta perché se si lega ad un'associazione, ad un interesse, ad un bisogno, allora deve entrare in un'altra, in un altro registro di razionalità, la razionalità calcolatrice, la razionalità della convenienza, del conseguenzialismo, dei costi-benefici. E quindi a questo punto esce dalla dimensione discorsiva per entrare in una dimensione tecnica e della morte della politica. Quindi parlare di separazione pubblico-privato significa per lei in effetti difendere il privato e il pubblico dal sociale. E questo è un problema apertissimo, perché è vero, cioè ha tante ragioni Hannah Arendt per dire questo, ma dall'altro lato noi, quando abbiamo classi sociali, gruppi di persone, diciamo, poveri, in bisogno, cosa, li rappresentiamo o no? Che cosa, che ruolo hanno questi, che ruolo hanno questi problemi in Hannah Arendt? Il sociale non c'è, quindi insomma io mi ponevo questo problema, non voglio andare oltre perché mi ripeterei, insomma.